Ma poiché viviamo lontano dagli esseri individuali, poiché i nostri sentimenti più forti, come il mio amore per la nonna, per Albertine, in capo a qualche anno non li conosciamo più, poiché non sono più per noi che una parola incomprensibile, poiché dei nostri morti possiamo parlare le persone di mondo che continuiamo a frequentare con piacere quando tutto ciò che amavamo è morto. Allora, se c'è per noi un modo di imparare a capire quelle parole dimenticate, dovremmo forse non usarlo, a costo di doverle prima trascrivere in un linguaggio universale ma permanente, capace di fare di coloro che non sono più, nella loro essenza più vera, un'acquisizione perpetua per tutte le anime? E se riusciamo a spiegarla, questa legge del mutamento che ci ha reso indecifrabili quelle parole, la nostra infermità non diventa forse essa stessa una nuova forza? D'altra parte, l'opera a cui hanno collaborato le nostre pene può essere interpretata al tempo stesso, per il nostro futuro, come un sogno nefasto di sofferenza e come un segno gioioso di consolazione. Infatti, se si dice che gli amori, le pene del poeta gli sono serviti, che lo hanno aiutato a costruire la sua opera, se le sconosciute che meno ne avevano il sospetto, l'una con una cattiveria, l'altra con uno scherzo, hanno portato ciascuna la sua pietra per l'edificazione del monumento che non vedranno, non si riflette abbastanza sul fatto che la vita dello scrittore non finisce con la sua opera, che la stessa natura che gli ha procurato le sofferenze entrate a far parte dell'opera continuerà a vivere oltre la fine dell'opera. Gli farà amare altre donne in condizioni che sarebbero uguali se non le facesse leggermente deviare tutto ciò che il tempo modifica nelle circostanze, nel soggetto medesimo, nel suo appetito d'amore e nella sua resistenza al dolore. Da questo primo punto di vista, l'opera deve essere considerata soltanto come un amore infelice che ne fa fatalmente presagire altri e a cagione del quale la vita assomiglierà all'opera che il poeta non avrà quasi più bisogno di scrivere, tanto potrà trovare in ciò che ha scritto la figura anticipata di ciò che succederà. Così il mio amore per Albertine, per quanto ne differisse, era già inscritto nel mio amore per Gilbert, in mezzo a quei giorni felici in cui per la prima volta avevo sentito sua zia pronunciare il nome e fare il ritratto di Albertine, senza sospettare che quel germe insignificante si sarebbe sviluppato e un giorno esteso su tutta la mia vita. Ma da un altro punto di vista, l'opera è segno di felicità, perché ci insegna che in qualsiasi amore il generale sta accanto al particolare e a passare dal secondo al primo con una ginnastica che fortifica contro il dolore, facendone trascurare la causa per approfondirne l'essenza. E infatti, come avrei sperimentato in seguito, durante le ore di lavoro, se la vocazione si è finalmente realizzata, persino nel momento in cui si ama e si soffre, si sente così bene l'essere amato, dissolversi in una realtà più vasta, che si arriva a tratti sino a dimenticarlo, e lavorando non si soffre più del proprio amore, che come d'un male puramente fisico, in cui l'essere che si ama non c'entra per niente, come d'una sorta di malattia di cuore. È vero che è questione di momenti e che l'effetto sembra essere opposto se al lavoro si arriva un po' più tardi. Perché se gli esseri che per cattiveria o per nullità erano riusciti, nostro malgrado, a distruggere le nostre illusioni, s'erano ridotti a loro volta a niente, separandosi dalla chimera amorosa che ci eravamo forgiata, e noi, a questo punto, ci mettiamo a lavorare. La nostra anima li fa risorgere, li identifica, per le esigenze della nostra analisi di noi stessi, con essere innamorati di noi. Nel qual caso la letteratura ricominciando il lavoro disfatto dell'illusione amorosa, da una sorta di sopravvivenza a sentimenti che non esistevano più. Siamo costretti, certo, a rivivere la nostra sofferenza particolare con il coraggio del medico che ripete su se stesso l'iniezione pericolosa, ma dobbiamo, nello stesso tempo, pensarla in una forma più generale, che in qualche misura ci consente di sfuggire alla sua morsa, che fa condividere a tutti la nostra pena e che non è nemmeno esente da una certa gioia. Dove la vita mura, l'intelligenza apre una via di scampo, giacché se non esistono rimedi a un amore non condiviso, dalla constatazione d'una sofferenza si esce, non fosse altro che traendone tutte le conseguenze. L'intelligenza ignora le situazioni bloccate, prive di vie di scampo della vita. Così, dal momento che niente può durare se non diventando generale, e se lo spirito muore a se stesso, dovevo rassegnarmi all'idea che anche gli esseri che furono più cari allo scrittore non hanno fatto, in fin dei conti, che posare per lui come si posa per i pittori. In amore il nostro rivale fortunato, ossia il nostro nemico, è il nostro benefattore, a un essere che ci ispirava soltanto un insignificante desiderio fisico, aggiunge di colpo un valore immenso, estraneo, ma che noi confondiamo con esso. Se non avessimo rivali, il piacere non si trasformerebbe in amore. Se non ne avessimo, o se credessimo di non averne. Non è necessario, infatti, che esistano realmente. Per il nostro bene è sufficiente la vita illusoria che il nostro sospetto, la nostra gelosia conferiscono a rivali inesistenti. A volte, quando un episodio doloroso è rimasto allo stato d'abbozzo, sopraggiungono una nuova tenerezza, una nuova sofferenza che ci consentono di completarlo, di dargli consistenza. Di questi grandi dolori utili non è comunque il caso di lamentarsi, perché non mancano, non si fanno mai aspettare troppo a lungo. Ma bisogna, in ogni caso, affrettarsi ad approfittarne, perché non durano mai molto a lungo. Ci si consola, oppure, quando sono troppo forti, se il cuore non è molto robusto, si muore. Per il corpo, infatti, solo la felicità è salutare, ma è il dolore a sviluppare le forze dello spirito. D'altronde, anche se non ci rivelasse ogni volta una legge, esso ci sarebbe pur sempre indispensabile per rimetterci ogni volta nella verità, per costringerci a prendere le cose sul serio, strappando via ogni volta le male erbe dell'abitudine, dello scetticismo, della leggerezza, dell'indifferenza. È vero che tale verità, incompatibile con la felicità e con la salute, lo è a volte anche con la vita. Il dolore finisce con l'uccidere. A ogni nuova pena troppo forte, sentiamo un'altra vena emergere, disegnare la sua sinuosità mortale lungo le nostre tempie, sotto i nostri occhi. Ed è così che si formano a poco, i terribili volti devastati del vecchio Rembrandt, del vecchio Beethoven, di cui tutti si facevano beffe. E non sarebbero niente le borse sotto gli occhi e le rughe sulla fronte, se non ci fosse la sofferenza del cuore. Ma poiché le forze possono mutarsi in nuove forze, poiché l'ardore che dura diventa luce e l'elettricità del fulmine può fotografare, poiché il nostro sordo mal di cuore può innalzare sopra di sé come una bandiera ad ogni nuovo dolore la permanenza visibile di un'immagine, accettiamo il male fisico che esso ci dà per la conoscenza spirituale che ci propizia. Lasciamo che il nostro corpo si disgreghi, perché ogni nuova particella che se ne distacca va, luminosa stavolta, e leggibile, per completarla al prezzo di sofferenze di cui altri, più dotati, non hanno bisogno, per renderla più solida, a mano che le emozioni sbriciolano la nostra vita, ad aggiungersi alla nostra opera. Le idee sono i succedanei dei dolori. Nel momento in cui questi si trasformano in idee, perdono una parte della loro azione nociva sul nostro cuore e, anzi, a tutta prima, la trasformazione stessa sprigiona istantaneamente della gioia. Succedanei, peraltro, solo nell'ordine del tempo, giacché sembra che l'elemento primo sia l'idea e il dolore nient'altro che la modalità secondo cui certe idee entrano inizialmente in noi. Ma ci sono più famiglie nel gruppo delle idee. Alcune sono subito gioie. Queste riflessioni facevano sì che io trovassi un senso più forte e più esatto della verità che avevo sempre presentita, in particolare quando Madame de Cambremer si domandava come potessi trascurare per Albertin un uomo come Elstir. Anche dal punto di vista intellettuale, sentivo che aveva torto, ma non sapevo cosa fosse a sfuggirle. Erano le lezioni con le quali uno compie il proprio apprendistato letterario. Il valore oggettivo dell'arte non c'entra quasi per niente. Ciò che bisogna far uscire, portare alla luce, sono i nostri sentimenti, le nostre passioni, cioè le passioni, i sentimenti di tutti. Una donna di cui abbiamo bisogno, che ci fa soffrire, trae da noi una serie di sentimenti ben più profondi, ben più vitali, di un uomo eccezionale che desta il nostro interesse. Resta da sapere, a seconda del piano su cui viviamo, se quel certo tradimento con cui una donna ci ha fatto soffrire ci sembri o no poca cosa rispetto alle verità che il tradimento stesso ci ha rivelate e che la donna, felice d'aver fatto soffrire, non sarebbe stata in grado di capire. In ogni caso, i tradimenti non mancano. Uno scrittore può applicarsi senza timore a un lungo lavoro. Basta che l'intelligenza si metta all'opera. Strada facendo sopraggiungeranno in numero sufficiente i dolori che si faranno carico di condurla a termine. Quanto alla felicità, essa ha, si può dire, una sola utilità: rendere possibile l'infelicità. Dobbiamo, nella felicità, formare legami molto dolci e molto forti, di fiducia ed affetto, perché la loro rottura ci procuri quella lacerazione tanto preziosa che si chiama infelicità. Se non si fosse stati felici, sia pure solo con la speranza, le infelicità sarebbero senza strazio e dunque senza frutto.